Bonjour, bidon. Quinta puntata. E buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Bonjour Bidon. Questa volta per davvero, ci siamo. Siamo davvero qua. Eravamo un attimo nel camion della regia anche noi. Stavamo cercando di vedere per la centesima volta un video che ci sta ossessionando da ieri sera. Che video, Angelo? Un video, quei 7 secondi che tutti guardiamo in continuazione. Stiamo cercando di superare questo psicodramma che da ieri incombe su di noi. Siamo andati anche al poetto ieri sera. Ma anche al poetto non si faceva che parlare di gomiti, di transenne, di cadute, di sangue. E allora ho detto andiamo in paninoteca, nella storica paninoteca Baffo, e anche lì purtroppo. E anche lì regolamenti e commi e cose a cui appigliarsi, e non se ne esce. E allora dopo ci hanno detto andiamo al Buon Cammino, un posto bellissimo, mangiamoci un gelato in tranquillità, ma anche lì scivolate e scorrettezze. Non c'è possibilità di non parlare dell'argomento del giorno, del quale tutti parlano, anche noi. Cerchiamo di andare avanti, invece no, non lo faremo adesso, non lo faremo in questa puntata. Indovinate un po' di che cosa parleremo oggi, e con questa aspettativa andiamo avanti. Chissà che cos'è l'aspettativa. L'aspettativa, Angelo, che aspettative hai per la puntata di oggi? Beh, l'aspettativa di parlare dell'argomento del giorno, ovvero l'esclusione di Peter Sagan, campione del mondo, dal Tour de France. Avremmo fatto volentieri a meno di parlare di questo argomento, però ci tocca. Ovviamente un episodio non felice, sia per quello che è successo, sia per le conseguenze. Come saprete, e se non lo sapete vuol dire che siete stati su Marte fino a ieri, ma vi riassumiamo in poche parole quello che è successo, ovvero si parla di due cadute che vedono forse Peter Sagan come responsabile. Una a 1,5 km dal traguardo, che coinvolge Peter Sagan e Cimolai e Guarnieri, cioè ovvero Sagan cerca di farsi spazio tra i due e forse causa la caduta di Guarnieri, che poi ha generato una caduta ben più grande che ha coinvolto anche la maglia gialla. Ma forse perché non ci sono immagini chiare di tutto questo, ma l'episodio più importante del quale proprio tutti parlano, tutti, compreso noi, è quello a 200 metri dal traguardo, ovvero quello che coinvolge Sagan e Cavendish. Cavendish cerca di passare alla destra di Sagan, tra Sagan e le transenne, c'è un contatto tra i due. Un contatto molto discusso, dove si vede a Sagan alzare un gomito. Non si capisce se questo gomito abbia causato la caduta di Cavendish, una caduta rovinosa che gli ha fatto molto male, infatti si è anche ritirato. Sì. Una caduta che poi coinvolge anche altra, se non sbaglio, Degenkolb. Tra gli altri Degenkolb e Trentin. No, vabbè, comunque. E per questo comunque Sagan arriva secondo al traguardo. In un primo momento la giuria gli dà una penalità di 30 secondi e di 80 punti in classifica, della classifica punti. E poi dopo, in serata, quando noi eravamo già al poetto, arriva la notizia che Sagan invece è stato escluso dal tour. Il fulmine a ciel sereno, cioè il fulmine a cielo già nuvoloso, però è arrivato. E ne parliamo però con qualcuno di nostra conoscenza adesso? Assolutamente, per parlare di tutto questo non possiamo che parlare col nostro super ospite, ovvero con Filippo Cauz. E vai con lo stacchetto! Buongiorno Filippo, ci sei? Ci sono, immaginate lo stacchetto anche oggi, è sempre bello immaginartelo. Mi fa piacere sapere che anche a Cagliari, così come nel mio salotto ieri, non si parlava d'altro che della fuga di Guillaume Barré. Vabbè, un pochino se n'è parlato. Noi ci abbiamo provato a parlare ieri pomeriggio su Bidon, però poi l'attualità ha preso il sopravvento su tutto. Ma arriviamo, guardiamo in faccia la medusa. Vediamo un po', secondo te, Filippo, questa esclusione è giusta o ingiusta? Sei d'accordo? Aveva colpa Sagan? La mia risposta è non lo so. Te la cavi bene, sei Ponzio Pilato? No, allora, premetto una cosa, trovo di una noia mortale la moviola nel ciclismo, forse solo l'antidoping lo trovo più noioso nel ciclismo, sono due cose che io cancellerei, le corse finiscono e godiamoci la corsa anziché stare a riguardare i filmati ogni 2x3, questo si è mosso, questo non si è mosso, lo lascio volentieri ad altri come esercizio di stile. E sulla caduta in sé, è una caduta sicuramente, sicuramente si è mosso male Sagan, come si sono mossi male tanti altri dei protagonisti. L'espulsione non è una cosa campata per aria, ci può stare come non ci può stare. Io, se fossi stato in giuria, probabilmente mi sarei impiccato, ma se non mi fossi impiccato probabilmente l'avrei tenuto in corsa, perché avrei cercato di salvare capra e cavoli, diciamo, la terra. Dopodiché non credo si possa gridare allo scandalo, e mi spiace soltanto che questo tour vada avanti senza Sagan e senza Cavendish. Per usare una delle frasi fatte che tanto ci piace usare in questa trasmissione, prima o poi arriveremo a fare una trasmissione di sole frasi fatte, si sono viste espulsioni per molto meno. Anche questo è vero. Beh, quello che è certo è che perdiamo due grandissimi protagonisti. Evidentemente tutto il clamore che si è creato è perché Sagan non passa inosservato mai. È una figura che ha un ruolo importante nel ciclismo. Angelo, io voglio aggiungere una cosa su questo, nel senso che io sono un po' più netto di Filippo, nel senso che secondo me Sagan andava assolutamente tenuto in corsa, anche perché, questo l'ha scritto Caley Fretz su Velo News ieri sera, Sagan, non sappiamo se è stata giusta la squalifica di Sagan, perché non sappiamo cosa è successo realmente. Cioè, fondamentalmente la giuria ha preso una decisione netta in una situazione che netta non è, dalle immagini e dalle ricostruzioni. Questo è il punto fondamentale della discussione. Quindi quel che è certo è che è stata una volata effettivamente abbastanza complessa da leggere, da vedere, ma in realtà è estremamente scorretta anche da altri aspetti. Ma secondo te, Filippo, qual è il motivo? Ma il motivo non lo so, io la conclusione che traggo dalla giornata di ieri, a parte la fuga di Van Kersburg, è che siamo arrivati in una situazione in cui i velocisti sono talmente abituati a crescere con i treni, ormai anche nelle corse degli under 23 dei dilettanti si corre con i treni, che quando glieli togli, come è successo ieri per la caduta che c'è stata a 1,5 km dall'arrivo, non capiscono più niente. È vero. Ieri era una volata in cui, sicuramente convulsa, in cui si cercava di passare nei buchi dove non sai se ci passi, ma questo è il sale delle volate, il bello dei velocisti, è che si buttano in buchi dove non sanno dove possono passare o no. Eppure si sono sbarati 200 volte, Buanni ha fatto due incidenti in 50 metri ieri nell'arco della stessa volata. Adesso posso capire che Buanni sia un corridore irruento, ma ho visto una serie di movimenti che non si spiegano se non col fatto che forse questi devono rimettersi un po' a studiare come ci si muove in volata, magari andarsi a fare degli stage di pairing in Giappone e poi ripresentarsi. No, la cosa che colpisce è che poi la manovra più azzardata di tutte alla fine è quella di Cavendish, che cerca di passare tra la Transenna e Sagan. L'ha fatto molte volte in carriera, però resta una manovra azzardata. Lui stesso, ho trovato una sua dichiarazione, qualcuno l'ha proposta del passato, dice: quando sei dietro in volata l'ultima cosa che devi fare è passare all'interno, e lui cerca di fare proprio quello ieri e trova il gomito di Sagan, che poi l'eterna frattura tra teoria e pratica. Ma sì, c'è una cosa. Un mese fa esaltavamo Gaviria per essersi infilato in un buco impossibile a Tortona. I velocisti le fanno queste cose. Certo, ma non riesce sempre poi, Non riesci sempre, esattamente. Quel che è certo è che cambiamo in continuazione idea. Io, per esempio, ho visto il video 80 volte e 80 volte ho cambiato idea. Cioè, alla fine penso che sia una, per dire anche la mia opinione, penso che sia una decisione estremamente esagerata, perché però come me hanno cambiato idea in tanti, compresa la giuria, che prima ha dato una punizione e poi ne ha dato un'altra. Sì, la cosa interessante è che la giuria, a differenza di gran parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori, ha cambiato idea in senso peggiorativo. Cioè nel secondo momento, la seconda decisione è stata molto più punitiva della prima, mentre tutti gli altri, compresi i colleghi di Sagan, hanno rivedendo le immagini, hanno realizzato che forse non andava squalificato. Greipel ieri è stato uno dei primi, era arrabbiatissimo con Sagan sulla linea d'arrivo, in serata ha guardato le immagini e ha twittato: forse qualche volta devo parlare dopo aver visto le immagini, perché guardandole in effetti devo chiedere scusa a Sagan, non ha grosse responsabilità nella caduta, non andava squalificato. Lo stesso è successo, lo stesso ha detto Jens Voigt, lo stesso ha detto anche McEwen, che forse in un secondo momento non era così grave quello l'accaduto da parte di Sagan. Mi è venuto in mente, qualcuno dice forse lo riammetteranno in gara, è una speranza più che altro. Io ho letto di Urs Zimmermann, che nel 91 fu riammesso al Tour dopo essere stato squalificato, perché tutti i corridori protestarono clamorosamente contro la giuria, però in quel caso il motivo della squalifica di Zimmermann era un po' più divertente di così, un po' più leggero, si era rifiutato di prendere l'aereo per un trasferimento ed era andato in auto. Bene, però con noi continuiamo a parlare di questo episodio, abbiamo chiamato e ci verrà in soccorso una firma importante del giornalismo italiano, abbiamo con noi al telefono Alessandra Giardini del Corriere dello Sport Stadio, una nostra collaboratrice. Una nostra amica innanzitutto. Sì, innanzitutto, che ha già avuto, abbiamo avuto già la fortuna di conoscere, ha scritto con noi anche il 100 Giro, il nostro libro sul centesimo anno del centesimo episodio, sì, buonanotte. Centesima edizione del Giro d'Italia. Oggi è tutto storto. Comunque, ciao Alessandra, ci sei? Ciao, sono qua. Come stai? Dove sei innanzitutto? Sono a casa mia, a Bologna, vedo molte torri, perché tutti pensano che a Bologna ci siano due torri, ma dalla mia finestra ne vedo almeno 10. e da qui seguo il tour. Quest'anno non sono ancora partita, non so se lo farò, vediamo come va. Ieri non è andata granché bene, cosa ne pensi di questa espulsione di Sagan? Noi più o meno siamo d'accordo sul fatto che sia eccessiva, tu cosa ne pensi? Sì, anche secondo me è eccessiva. Io ho scritto che il tour ha tentato il suicidio, adesso è in rianimazione, vediamo se se la caverà, perché loro sono convinti che il tour sia più importante di chiunque, di tutti i corridori. Da un certo punto di vista hanno ragione, più importante dei percorsi, più importante di qualunque altra cosa, in questo caso più importante anche di Sagan, cioè cacciare Sagan è come cacciare Pantani quasi, insomma, cacci il simbolo del ciclismo in quel momento. Al di là di questo, se la decisione era obbligatoria, per carità, non c'è niente da dire. Io più rivedo le immagini, più penso che sia stata un po' eccessiva, anche perché in quel frangente, in quella volata, non è certamente Sagan l'unico che ha delle colpe. E uno che ne ha parecchie, per esempio, dal mio punto di vista è Cavendish, mi dispiace che si sia fatto male, la penso un po' come Sagan, sta parlando Sagan davanti al suo albergo, se capisco bene il fiammingo sta dicendo delle cose su cui sono molto d'accordo, lui dice devo accettare la decisione della giuria ma non sono d'accordo, la cosa importante è che Cavendish recuperi rapidamente. Non pensavo di aver fatto un errore, avete visto che è stata una volata pazza, non è certo la prima, non sarà nemmeno l'ultima, e poi ha aggiunto una cosa che me lo fa amare moltissimo: voglio anche scusarmi se non vi ho risposto ieri, ha detto. Ah, è che bello. Fantastico, perché lui in genere è sempre molto divertente da ascoltare, anche quando si lamenta delle domande che sono sempre uguali, ma purtroppo devo dire che ha ragione, gli chiediamo sempre le stesse cose. No, un po' è vero, un po' è vero. Alessandra, grazie perché ci stai anche facendo questo contributo di diretta nella diretta, quindi è preziosissimo anche per noi questo. Io credo che ieri sia stato anche un po' sfortunato Sagan, perché c'è stata questa ripresa televisiva in cui sembra proprio che la direzione della causa e dell'effetto sia lui che alza il gomito e Cavendish che cade, quando poi abbiamo visto tutti che è un po' più complicata di così la dinamica. Al di là di questo, giusta o sbagliata che sia l'esclusione, Angelo ieri chiacchierando mi faceva notare una cosa più generale sul percorso personale e professionistico di Sagan. No, abbiamo una perplessità, cioè c'è una possibilità, comunque Sagan è una figura sicuramente vistosa, una figura positiva secondo me per il ciclismo, legata a una dimensione quasi adolescenziale, scherzosa, guascona dello sport. La domanda è, chissà se questo episodio sarà uno spartiacque nella sua carriera, cioè comunque è un'esclusione abbastanza pesante, non so cosa potrà fare poi quest'anno una volta escluso dal tour, cambierà il suo atteggiamento? Ovviamente nessuno ha la risposta, però potrebbe cambiare? Io spero di no, anche se è possibile, perché sicuramente è una esclusione pesante. Ti rispondo intanto a Angelo a che cosa farà quest'anno. Secondo me a questo punto è costretto a vincere il mondiale, quindi ne rivincerà un terzo, temo. Io spero che non cambi Sagan, perché tu dicevi sì, adolescenziale, un po' un Peter Pan, diciamo. È vero, a me piace chiamarlo leggero. Sagan è una persona leggera perché corre senza sentirsi addosso tutti i pesi che ci sentiamo noi normalmente, responsabilità. In realtà è una persona seria, perché se non sei una persona seria non riesci a fare quello che lui fa. Tutti noi sappiamo che cosa vuol dire fare il corridore professionista e i sacrifici che si fanno. Però ha quest'aria sempre molto scanzonata, molto leggera. Io credo che in realtà lui te lo faccia e un po' lo sia, però fare il leggero ti rende tutto più semplice. In realtà a me piace molto il suo modo di fare, mi piace che canti per strada. A qualcuno dà un po' fastidio perché ci sono questi tutti presi, tutti seri. Vero. Fanno un po' fatica a sopportare il fatto che uno che canta e che si pettina come Ermonnetta e che ha questa voce che sembra ti prenda sempre in giro, gli dà fastidio, perché che lui la viva così leggermente e poi gli basta, è complicato da spiegarsi a questi asceti a tutti i costi. Però insomma, a me per esempio piace molto e io mi auguro davvero che non cambi. Il dubbio che resta è che lui, essendosi costruito anche questa immagine, come l'hai descritto tu, esattamente leggera, fosse non aspettassero molti l'occasione, non aspettassero proprio che questa occasione, il primo errore, per poter dire però tu ti sei costruito questa immagine così leggera e scanzonata, adesso che sbagli te la facciamo pagare un po'. Viene anche questo. Ma io credo che questo sia un problema di questo mondo, è un problema anche aumentato, esagerato dall'importanza dei social. Io credo che non sia soltanto il problema di Sagan, che sicuramente non vedevano l'ora di poter in qualche modo attaccare, semplicemente perché è diverso da loro. Vi ricordate quello che successe a Nibali quando fu cacciato dalla Vuelta? Certo, ci fu una crocifissione di Nibali, che obiettivamente è una persona seria, una persona per bene e aveva sbagliato, probabilmente non era neanche tutta colpa sua, era stato indotto all'errore, ma questo è un altro discorso. Aveva sbagliato, l'ha pagata, non c'era bisogno di metterlo alla gogna. Certo. Io credo che queste cose... Sembra davvero che la gente non vedesse l'ora di poter dire che Nibali... fosse scorretto. Corretto. Se permettete, io chiuderei con una piccola osservazione mia personale, che magari in tutto questo una cosa che possiamo ricavare è cominciare a chiamare meno volte Sagan, per esempio, con questi appellativi tipo bomber o ignorante, cose del genere, che certo non aiutano, e questa è una mia cosa personale, ci tengo particolarmente, non aiutano a consolidare una sua immagine di ciclista che fondamentalmente serio, professionista, che dice delle cose interessanti e pensa anche delle cose belle. Comunque, Alessandra, al di là di questa parentesi, in generale il tour ti piace? Chi è il tuo favorito? Cosa pensi che succederà oggi? Rapidissimamente, perché siamo in ritardissimo. Non mi piace il percorso, poi il tour si inventa sempre qualcosa per darci da parlare in corso d'opera. Diciamo che come è stato disegnato non mi piace tantissimo. Poverini, non hanno le montagne che abbiamo noi, ma quest'anno, pur mettendole dentro tutte, sono riusciti a fare delle tappe che non mi piacciono tanto, montagne lontane dal traguardo, insomma, hanno fatto un po' di tutto per incasinarlo un po'. Chi vincerà non lo so, io non ci prendo mai, quindi non ve lo... Nemmeno dico. Noi, non ti preoccupare, noi ogni giorno facciamo pronostici e non indoviniamo mai. Io non ci prendo mai, ero convinta che Sagan vincesse la metà delle tappe e è già fuori, quindi non voglio mettere il peso del mio pronostico sulle spalle di nessuno. Credo che non lo vincerà Contador, posso dire questo. Questo è il pronostico è negativo. Apro la strada al vecchio spagnolo che vincerà sicuramente. Speriamo a questo punto. Dai Alessandra, noi speriamo che il tour sia un po' più divertente di come te lo auguri tu. Dai, penso che te lo auguri anche tu alla fine. Mi auguro divertente e ti certo. Dico, sono sicura che si inventeranno qualcosa per farci divertire. Speriamo se la inventino i corridori, qualcosa per farcela certo, divertire. I corridori, chiaro. Senti, ti salutiamo, ma tu questi orologi sbagliati del tour li hai mai sentiti? Ti piacerebbe acquistarli? Perché sono il nostro sponsor, sono lo sponsor del nostro programma e stiamo cercando di spingerli. Mi piacciono moltissimo. Ti piacciono? Guarda, la linea è sempre attiva. Sempre attiva, è sempre attiva, giorno e notte. Perfetto. Grazie Alessandra, buona giornata, buon tour e a presto, se vuoi ci risentiamo nei prossimi giorni. Va molto volentieri. Ciao, grazie. Buon lavoro. Ciao. Come anticipava l'ottimo Leonardo, sì, è arrivato il momento del nostro sponsor, lo sponsor più amato dagli italiani, lo sponsor più ottimo degli italiani, ormai l'italiano non è più presente in questa trasmissione, abbiamo e ci inginocchiamo al momento dello spot. Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Certo, piccolina. Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... avevano al posto del numero 12 il 13. Ma se sai già tutto, nonno, cosa ci sta a fare? Mi fai un regalino? La collezione degli orologi d'oro sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume sulla storia del punto a croce. 850 80 90 60 70 80. Ma questa era la mia battuta. Sì, nonno, ma eri lento. Mo ti riporto da tua madre. Più la sento e più sono convinto di chiamare a questo numero per acquistare questi bellissimi orologi. Ho una sola speranza, che il nonno riporti presto sta bambina dalla madre, perché già non la sopporto più gli orologi sbagliati. Ti ho già detto ieri che lo sponsor è importante. Non lo accetterò mai. La pubblicità ti deve piacere, non è che hai la possibilità di dire non mi piace, questa ti piace. Punto. Dillo ufficialmente che ti piace. Ok, mi piacciono gli orologi sbagliati del Tour. Oggi pomeriggio telefono, anch'io e li compro. Invita tutti a comprarli. E comprateli anche voi. Quanto costano? Poi non si sa. Vabbè, bisogna chiamare, così hai anche il regalo. Certo, il volume del punto a croce. Ma invece ieri, Angelo, abbiamo visto altro. Oltre al fattaccio di Sagan e Cavendish, specialmente durante la tappa, grandi prati, grandi campi di grano e di girasoli. È arrivato il momento di un'altra rubrica, una rubrica che stiamo aspettando dall'inizio. È una rubrica alla quale io sono molto molto affezionato, ci tengo particolarmente, ed è la rubrica nella quale vediamo assieme alcune installazioni che gli ottimi francesi riescono a fare ai lati delle strade. Quindi parte adesso la nostra nuova rubrica Mucche e Trattori, Gioie e Dolori. Che titolo è? È bellissimo. Vuoi criticare anche i titoli? Cioè, questo è il tuo ruolo, quello criticare. Comunque, no. È la rubrica nella quale noi abbiamo modo di vedere alcune delle installazioni. Si dice vacche, non mucche. Si dice vacche. Sai, poi parleremo delle vacche più avanti. Vedrai, perché anche nelle resoconti Ocra oggi si parla di vacche. Abbiamo svelato già un'anticipazione. Sì. Non spoilerare. Però, a proposito, vedi, anche il Tour ci omaggia, perché ieri, nel passare del Tour, l'ottima, ormai la parola di oggi è ottima, regia francese ha inquadrato questa installazione di balle di fieno. La state vedendo ora su Facebook. Chi ha Facebook può in questo momento guardarla. È un orologio fatto di balle di fieno con dentro alcuni bambini che segnano, fanno le lancette, fanno le ore. Su questa immagine c'è da domandarsi se loro riescono ad andare contemporaneamente, cioè se riescono a segnare l'orario vero. E questo, diciamo, forse è l'obiettivo finale di finale. Io credo che l'obiettivo in realtà sia questa protesta che gli agricoltori francesi stanno portando avanti, però è un modo che noi sosteniamo di protestare. Vedi come sbagli. Sì, c'è anche la protesta, ma l'obiettivo vero, devo insegnarti tutto, è l'arte, è la bellezza. Alla fine è sempre arte e bellezza. No, scusate, mi state malinterpretando, l'obiettivo vero è vendere la collezione degli orologi sbagliati del Tour. Ma c'hai ragione, certo, questo è il riferimento principale, giusto? Assolutamente. Vediamo un'altra immagine, ovviamente, così come si chiama mucche, trattore, gioie e dolori, c'è un'immagine, una delle numerose immagini di mucche, di vacche presenti sul percorso. Questa in questo è bellissima, caso, perché io in particolare adoro queste immagini dove hai le vacche in primo piano e i ciclisti che passano dietro tra i prati verdi. E queste sono delle mucche, per l'appunto, la trovo... volendo commentare, sono delle mucche che osservano i ciclisti e ci insegnano il senso della vita muggendo. Sì, passiamo all'ultima immagine, l'ultima immagine che abbiamo scelto per oggi, ovviamente chiamandosi mucche e trattori, non possono che essere dei trattori. Bellissimi, eccoli qua, schierati mentre passa la corsa. Qui non c'è un livello artistico, cioè sono semplicemente in fila uno accanto all'altro, magari. No, ma scherzi, la regolarità, la precisione, il ritorno puntuale, l'eterno ritorno del trattore. Tra l'altro in questa immagine sono disposti dal più piccolo al più grande. Vedi, questo non l'avevo notato, non però fatto è molto tanto. Bello. E tra l'altro la performance vuole che ci sono delle persone sopra il trattore che applaudono. Tra l'altro non applaudono normalmente, ma fanno un ritmo di tre quarti. Sei riuscito a notare? Sì, il tuo spirito sì. Da attore. Sì, questa beh, perché è una performance anche certo. Qui. Perché stanno facendo tre quarti anziché un banale quattro quarti? Lo scopriremo andando avanti. No, lo scopriremo dentro la nostra anima, perché l'arte ha già parlato, siamo noi a doverla capire. Va bene, per fortuna il tour va avanti, va oltre no, saga. Per fortuna così potremmo vederne altre. Potremmo vederne altre. Chissà se ne vedremo altre già oggi, ovvero nella tappa che tutti stiamo aspettando da un po', dove scopriremo chi non può vincere il tour, per citare una delle frasi della nostra sfida, ed è la tappa che verrà, che ci viene raccontata come sempre dall'ottimo Pietro Pisaneschi. Tappa numero 5. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della quinta tappa di questo Tour de France 2017 da Vittel alla Planche de la Belle Fille per 160 km. È il primo vero arrivo in salita di questa 104esima Grand Boucle, una salita dal nome curioso che i corridori affronteranno dopo essersi sciroppati 152 km nelle regioni dell'Alta Saone e de Vosges, con un'altra cima segnalata di terza categoria rappresentata dalla Côte des Mouliers. Ma come detto, la tappa si deciderà sulla Planche des Belles Filles, letteralmente il bordo delle belle figlie. Narrasi che durante la guerra dei Trent'anni le giovani donne dei villaggi limitrofi alla salita si fossero arrampicate fino alla cima della stessa per sfuggire ai poco nobili intenti dei mercenari svedesi e, una volta lassù, avessero preferito suicidarsi gettandosi di sotto piuttosto che divenire delle facili prede. La Planche des Belles Filles è una salita breve, poco meno di 6 km, ma dalle pendenze aspre intorno all'8.5% che la rendono una salita di prima categoria. Si raggiungono punte fino al 13% durante l'ascesa e addirittura fino al 20% nell'ultimo tratto. Qui, nel 2012, si rivelò al grande ciclismo Chris Froome, allora scalpitante gregario della maglia gialla Bradley Wiggins, mentre nel 2014 colse una splendida vittoria a Vincenzo Nibali. Per questo, oggi, potrebbero già muoversi big che ambiscono a sfilare la maglia gialla a Geraint Thomas, chiamato alla prima vera difesa del primato. Le pendenze poco dolci sembrano ideali per una sortita di Fabio Aru in cerca della prima affermazione al Tour de France, così come Quintana e Port potrebbero essere i primi a gettare il guanto di sfida a colui che resta il favorito principale per la vittoria finale di questo Tour, ossia Chris Froome. L'appuntamento è a domani con la presentazione della sesta tappa. Vi invito ovviamente a seguire il post tappa su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P. Au revoir! E dunque, caro Filippo, ci sei ancora? Ci sono, ottimo Pietro, come sempre, il nostro ottimo giornalista, un po' meno ottimo sul francese perché figlio vuol dire ragazze, no? Vero. Però dici, anch'io dico sempre plancia delle belle figlie. Suona meglio, dai. Suona meglio. E su questa plancia delle belle figlie, cosa ci aspettiamo? Che tipo di tappa ti aspetti, Filippo? Mi aspetto una tappa in cui arriverà la fuga, finalmente. Ah! Io ma non sarei d'accordo. Senso, la mia domanda è quando la fuga va via oggi chi la va a riprendere? Sì, posso rispondere? Secondo me non so se la Sky si dannerà per andare a riprendere una fuga oggi, si danneranno sicuramente due Sky per guadagnare qualcosa sui rivali, ma non so se per andare a giocarsi la vittoria di tappa. Secondo me si dannerà dei nomi in fuga oggi. Si dannerà per andare a riprendere la fuga la BMC, perché secondo me Port oggi ha bisogno, necessità e voglia di fare qualcosa di buono su questo arrivo che gli si addice particolarmente, salita breve e ripida. Secondo me la BMC ci proverà a tenere la corsa un po' più chiusa, però potrei tranquillamente sbagliarmi, non sarebbe la prima volta. Tra i favoriti, il tuo favorito allora anche in fuga chi potrebbe essere, Filippo? Il mio favorito oggi? Non ho guardato quanto si è già preso in classifica, ma potrei già dire tipo chi no. Ho visto che già si stava facendo sfilare, però non ho visto quanto distacco ha già maturato. Ricordiamo che chi vince il pronostico ha diritto a prendere due pacchi di pane Carasau. Oggi sì, salirei a tre perché oggi il pronostico è difficile. Tre pacchi di pane Carasau. Dai, portiamo a tre e io faccio dirò di più, nell'accezione di pane Guttiau che con l'olio e il sale. Buonissimo, quello che mi piace di più quello. Io invece direi, ho già detto Port, direi una parola mezza anzi su Fabio Aru che non abbiamo menzionato. Il favorito di Angelo anche che lui non si espone mai. No, io ieri non voglio dire c'è un motivo. Io sto zitto perché ieri ho detto che il mio favorito era Cavendish, quindi oggi sto zitto. Io invece oggi volevo dire due parole su Aru perché anche lui sappiamo che sta benissimo, questa salita con queste pendenze può solo fargli bene, fare bene al suo morale e alle sue gambe. Però non lo gridiamo troppo forte. Diciamo che tra gli altri, cioè, se gli uomini di classifica oggi dovessero darsi battaglia, e se la daranno perché gli arrivi in salita sono solo tre in tutto il tour, Aru potrebbe essere protagonista. Nessun modo di dire in sardo oggi, no, ce lo teniamo un po' così leggero. Bene, Filippo, noi ti salutiamo, ci sentiamo domani. Sì. Saluti anche alle belle figlie. Sono delle ottime belle figlie, tra l'altro. Buona tappa, a domani, ciao. Salutiamo il nostro Filippo, gli diamo la possibilità di connettersi immediatamente alla nostra diretta perché sta per partire il momento tutti stanno aspettando, ovvero anche oggi la nostra Fiammetta Ruyu è in Francia e sull'arrivo e ha trovato una storia. Quella di oggi è veramente commovente. Ho paura già di ascoltarla. E siamo pronti anche oggi per ascoltare i nostri resoconti ocra. Questa storia inizia dove la terra incontra il cielo. Come sempre. Il cielo incontra la terra. Si incontra. La terra e il cielo si incontrano, ma nessuno dei due incontra il mare. Eh no, oggi non c'è. Personale. Ma dove inizia questa storia il mare non c'è. E beh. La terra desidera talmente incontrare il cielo che diventa montagna. Ed è un po' terra, ma non mare, che proprio non c'è dove inizia questa storia. Non c'è. Montagne che riempiono gli occhi metodici di Franz Franz. Metodici oggi. Che accudisce un manipolo di vacche e custodisce anche un sogno nel suo cuore. Far sì che le sue vacche diventino le prime vacche majorette del dipartimento dei Vosgi. Forza, François. Bravo. Allena le vacche. Vai. Segui i tuoi sogni, segui le musiche più adatte al ritmo del tuo cuore. Ma qual è il ritmo del cuore di François? Spesso segue strade incomprensibili. No. E non piega il suo percorso ai progetti degli sprovveduti. No. Grazie a Dio, direi. Le vacche di François non seguono la coreografia. Si disperdono, muggiscono senza ritmo, lo deridono. No! François fallisce. Perde la fiducia, perde il lavoro, perde la fidanzata, perde anche l'autobus. Anche l'autobus. Ora, nei suoi occhi carismatici, c'è solo una mandria di vacche disobbedienti e tanta umiliazione. Povero. Mentre una languida lacrima attraversa il suo volto, nel cielo zigzaga una attonito, potremmo dirlo anche noi. Mi fai sentire? Non sto ascoltando, mi stai rovinando l'emozione. Non che emozione? Mi stai rovinando la tensione che questa brava ragazza riesce a ottenere. È ottima quando fa così. Ma quale emozione? Ma stiamo parlando delle vacche majorette. Ma ti rendi conto? Allora, se il progetto di François era quello, cioè tu non lo devi denigrare. Vedi, ti devo insegnare proprio tutto. Denigri lo sponsor, denigri i nostri servizi. Cioè, Leonardo, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Ma François, ma che nome è, tra l'altro, in tutto questo? È un nome francese, François. È ottimo, tra l'altro. È ottimo. Comunque, quando fai così sembri proprio una mucca majorette, fatelo dire. Comunque, anche per oggi abbiamo concluso. Non abbiamo concluso perché è il momento di ricordare che ieri noi abbiamo proposto la storia delle frasi fatte del ciclismo. Assolutamente. La riprenderemo in una puntata dove avremo meno cose di cui discutere insieme. Però voglio soltanto concludere leggendo alcune perle che voi ci avete aggiunto al nostro elenco ieri su Facebook nel post. Ve le leggo, ne leggo 6 perché sono molto belle e le aggiungiamo poi alla competizione generale di questo Vox Populi, abbiamo chiamato. Vai. Non posso che partire da ogni volata fa storia a sé. L'episodio di ieri ci ha chiaramente dimostrato. Poi anche questa è molto bella. Quando un fuggitivo si volta non è mai un bel segno. No, quando si volta non è un bel segno. Ed è vero. Oppure, nelle tappe molto lunghe, con le salite e le montagne, in tappe come queste è fondamentale alimentarsi in modo giusto. Verissimo. Assolutamente. Verissimo. Oggi sarebbe auspicabile che si verificasse questa frase qui, invece vediamo se qualcuno prova a far saltare il banco. Questa è una frase d'obbligo in tappe come quella di oggi. Questa ci tengo che almeno 3 o 4 volte venga detta nel tour. E poi alla fine magari si realizza veramente la quinta. E poi questa magari la diremo dopo il giorno di riposo, che il giorno di riposo per molti può essere deleterio. È sempre deleterio, non ci sono altri aggettivi, il giorno di riposo è deleterio. Ringraziamo tutti gli amici che ce l'hanno suggerite. Grazie. Vi suggeriamo di andare a votare quelle già presenti, suggeritecene degli altre. E in generale, se vi è piaciuto il nostro lavoro, la nostra puntata, commentate. Il nostro lavoro, il lavoro di Fiammetta soprattutto. Il suo, va bene. Se vi spiacciono gli orologi sbagliati del tour, commentatelo, fatecelo sapere, condividete. Siate attivi e noi cercheremo di inglobare tutti i vostri consigli laddove ci riusciamo. Quasi tutti. Quindi dai, abbiamo veramente concluso tardissimo. In quest'altra puntata dove è successo di tutto e concludiamo ormai con la nostra classica frase che sarebbe il tour state col ciclismo che tanto domani è un altro giorno. Abbiamo deciso che è questa la frase. Oggi è questa. E vediamo se qualcuno sa far saltare il banco. Ieri non ha funzionato bene, ha prodotto degli effetti deleteri. Vediamo cosa succede. Comunque, buona tappa e a domani alle 11. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobet.